Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Alle 10 e 9 minuti, buona domenica, inizia il riposo del guerriero su Radio 24. Siamo pronti a recuperare quello che stiamo perdendo, perché nella puntata di oggi cercheremo di capire cosa c'è in via d'estinzione. Ci sono dei mestieri che forse spariranno, ci sono dei modi di fare che forse non ci sono già più, purtroppo, e altri nuovi, ma le cose nuove non ci interessano oggi, ci interessano le cose di un tempo, magari anche dell'altro ieri, che semplicemente però stiamo perdendo. Cosa c'è in via d'estinzione? Cosa non recupereremo più? O cosa dobbiamo salvare, secondo voi, di tutto quello che c'era e mano a mano sta per svanire? Fatecelo sapere, ovviamente, su Facebook, sulla nostra pagina, Il Riposo del Guerriero, oppure via SMS. I numeri, come sempre, 349-238-6666. Alle 11.30, però, anche oggi, questo non lo perdiamo, non è in via d'estinzione il mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa fino a 1.000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi libri cartacei o digitali, e adesso l'editoria digitale finalmente anche in Italia ha una forza. Se ne parlerà sicuramente la settimana prossima durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma torniamo al mistero in 24 minuti. Dovete risolverlo, e come sempre la risposta può essere un personaggio o qualcosa di molto conosciuto o una delle tante notizie della settimana. Per arrivare alla soluzione avrete gli indizi musicali, più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. Il primo indizio della settimana è questo. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Non entro nel commento del rifacimento di Ferrero di una famosa canzone, ma è questo il primo indizio comunque sia, e quindi così cercate di ragionare su quale potrebbe essere la soluzione. Il numero verde per prenotarvi fin da adesso 800 24 00 24. Dicevo, oggi cercheremo di capire cosa c'è in via d'estinzione. Oggi per esempio ho preso l'autobus per venire qui, ero l'unico sull'autobus alle 7:30 del mattino, allora io istintivamente ho chiaramente salutato il conducente, ma mi è venuto istintivo, ringraziandolo anche, grazie, buongiorno, ma guardato come se fosse un alieno arrivato sulla Terra e approdato a Milano. Ma è normale, cioè mi viene... Io mi ricordo che salutavo un po' di anni fa il tramviere. Non so se questa puntata nasce perché sto diventando vecchio, perché sono delle cose che non ci sono più. Un po' mi dà fastidio, un po' mi dispiace. Allora, anche voi cosa vi dispiacerebbe perdere? Fatecelo sapere, poi lo sentiremo anche con i tanti nostri ospiti. E per cominciare, beh, insomma, una canzone che già raccontava le cose che si sarebbero perse un po' di anni fa. Cosa? Era il 1989 quando Raff presentò questa canzone al Festival di Sanremo, che ebbe grandissimo successo, ma non al Festival di Sanremo, perché arrivò tra le ultime, ma spesso è così, era successo anche con Vasco Rossi, voglio dire. Quindi grande il testo, insomma, che non è di Raff, fra l'altro, e racconta già qualcosa che si è perso, e le tante cose che già si stavano perdendo, e oggi forse ne abbiamo perse ancora di più. Stanno arrivando anche i vostri messaggi, poi comincerò a leggerli. 349-238-6666, gli aggiornamenti sul traffico, e poi partiamo col primo ospite. Il riposo del guerriero. Strade in diretta. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 2 chilometri di coda dopo un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Rozzano in direzione Bologna. Trafficata in direzione Svizzera la 9, la Ennate Como Chiasso si incontra coda tra Como Nord e la Dugana. Rimane chiusa, lo ricordiamo, per lavori la 3 Salerno-Reggio Calabria sino alle 13 tra Campo Tenese e Morano Castrovillari in direzione Salerno, e nelle due direzioni tra Vibo Valentia e Rosarno sino alle 18 di questo pomeriggio. Per il momento è tutto, prudenza alla guida e buon viaggio. Il riposo del guerriero. Anche il Times qualche anno fa scriveva che i gentleman ormai non ci sono più, neanche a Londra. Strano, perché lì avrebbero dovuto esserci ancora, invece no. Insomma, se ne sta andando via il portamento dignitoso, il fascino e la capacità di attrarre e di sedurre, anche con le parole, con il fare, con l'onestà. Insomma, tutto questo si sta perdendo. Lo dicevano anche gli inglesi un po' di anni fa. È proprio così o semplicemente cambiano le cose? Insomma, c'è l'evoluzione e per qualcuno l'involuzione. Sabrina Carollo, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabrina è autrice del Galateo per tutte le occasioni, edito da Giunti, e bisogna capire se esiste ancora il bon ton, ma poi oggi che cosa significa, insomma, il bon ton, perché forse una parola da altri tempi, abbiamo perso anche quella. Esattamente. No, in realtà, dunque, bisogna precisare subito che, come giustamente premetteva lei, il Galateo è qualche cosa che, come dire, è molto georeferenziato e anche, come dire, relativo al tempo in cui si vive, per cui le buone maniere non sono assolute ma cambiano a seconda del periodo storico, del luogo in cui ci si trova, eccetera. Allora, la domanda spontanea è: oggi quali sono le buone maniere? Cos'è educato oggi? Oggi è difficile perché effettivamente, come diceva Gramellini un po' di tempo fa, stiamo un po' vivendo un nuovo medioevo, per cui, come dire, la lotta che si vede tutti i giorni per sopravvivere si trasporta poi anche nei modi che non sempre sono, come dire, adeguati, non sono attenti. Cioè, il bon ton è di fatto non una serie di regole sterili, ma semplicemente una forma di attenzione nei confronti dell'altro. Nel momento in cui, in un tempo come il nostro, si vive poco di attenzione nei confronti degli altri, anche le buone maniere vanno un po' perdendosi, ecco. Diciamo che rimangono in alcuni ambiti, per esempio nelle nuove tecnologie, nelle nuove forme di comunicazione, si stanno sviluppando delle forme di bon ton che prima ovviamente non erano pensabili, per esempio su Twitter, su Facebook, ci sono una serie di regole che naturalmente si sono un po' formate, no? Per cui le persone in un certo senso vengono obbligate dalla comunità in cui si trovano a reagire a determinate regole di comportamento. Ecco, mi fa sorridere un fatto, però in un network, in un social network, quando si discute e si scrive, la regola vuole che la lettera maiuscola significhi urlare, quindi se io scrivo tutto in maiuscolo significa che sto alzando la voce. Sì. E nello stesso tempo, quindi, io mi permetto di non alzare la voce in un social network, però poi lo faccio dal vero, magari con il volume della suoneria del telefonino molto alto o comunque, poi c'è il comportamento, non rispetta il comportamento virtuale, tra virgolette. Sì, questo penso che sia dovuto appunto al fatto che, come dire, chi arriva su un social network arriva in un ambiente che è stato, come dire, precedentemente colonizzato da persone che evidentemente erano educate. Erano preparate, insomma, a relazionarsi in un certo modo con gli altri, quindi si adatta alla situazione in cui si viene a trovare. Nella vita di tutti i giorni evidentemente stiamo un po' perdendo, cioè, come dire, sono in minoranza le persone che si rendono conto di come ci si deve comportare, quindi non c'è più, si sta un po' perdendo questa attenzione appunto all'altro che ci porta a comportarci in maniera un pochettino più cortese, gentile, secondo le regole del bon ton, che poi appunto non sono qualcosa di campato per aria, ma sono solo una forma di cortesia nei confronti degli altri. Ecco, il Tony Damascelli nel giornale di un po' di anni fa, discutendo proprio di questo articolo del Times del quale avevo accennato, e fa questa considerazione, dice: perché occuparsi dei guai del nostro pianeta è vero che è un dovere, ma dopo un po' devasta l'apparato, perché la modestia è bella ma spesso ti fa sembrare un pirla, e allora è meglio fare lo spaccone, oppure il bullo, il NASA, perché la puntualità è vero che è un principio dell'educazione, però l'attesa fa parte del gioco, e se non hai pazienza allora smamma, perché l'onestà è sì un dovere, ma l'arroganza è utile, perché è bello essere padri, però poi c'è sempre la moglie che fa da madre ai pupi. Insomma, il concetto è che è sempre meglio non essere così, non seguire così le regole, no? Dunque, le regole devono essere conosciute. poi nel momento in cui una persona le conosce, e soprattutto non soltanto le conosce in maniera teorica ma le ha introiettate, cioè le conosce profondamente, a quel punto può permettersi, quando è il momento, di trasgredire. Io non sono di per sé un amante delle regole in prima persona, però le regole vanno conosciute, cioè la licenza poetica esiste per i poeti, esiste per le occasioni, però diventa licenza nel momento in cui non è errore ortografico, nel momento in cui la grammatica si conosce. Ormai siamo tutti poeti e scrittori, che uno ha scritto un libro, sta pubblicando ormai. Verissimo. Dopo aver letto le poesie di Flavia Vento, credo di... è tutto possibile. Cos'è, esatto. Cos'è secondo te, Sabrina, che proprio si sta perdendo e tu vorresti un po' recuperare? Ma io direi proprio un'attenzione nei confronti degli altri, poi da quella scaturisce tutto. Non è importante, come dire, saper usare la forchetta giusta a tavola piuttosto che sapere inchinarsi o fare il baciamano, cioè queste sono cose, come dire, d'altri tempi, no? Esatto, sì. Sono cose anche un po' esteriori. La cosa fondamentale sarebbe cercare di fare attenzione alle altre persone, ma questo lo dico, cioè è bon ton di tutti i giorni, si tratta di mettere la freccia quando si gira in strada. Sì, in sì, o inchiodare la macchina in terza fila perché uno deve fare una commissione, bloccando completamente il traffico e fregandosene altamente di quelli che ci sono esattamente, dietro. Esattamente, certo. Esattamente. Cioè le regole di solito servono, come dire, sono come le leggi, cioè quante più regole ci sono, quante più leggi ci sono, quanto più si vede che un popolo ha bisogno di essere regolato. Quindi l'auspicio è quello di non di avere tante regole, ma di averne il meno possibile, perché le persone si rendono conto da sé delle necessità anche degli altri, non solo delle proprie, ecco. Questo secondo me è la cosa che dovremmo un po' tutti sperare. Chi ha sbagliato? Se c'è qualcuno che ha sbagliato, che sta cambiando in qualche modo queste regole? La comunicazione, la televisione, i media. Io voglio essere positiva, nel senso che secondo me è un po' anche una fase di, come dire, autocoscienza, come un po' come l'individuo quando cresce passa prima dalle regole dei genitori e poi alla ribellione fino a trovare un proprio equilibrio. Io mi auguro che anche noi stiamo facendo questo percorso, cioè dopo le regole molto restrittive, molto forti del passato, che ci erano state un po' imposte, insomma, che venivano dall'alto, ora c'è una forma di liberazione della persona, di eccesso anche, no? E poi si troverà un equilibrio, insomma, me lo auguro, ecco. È difficile individuare un colpevole singolo, perché poi alla fine, insomma, così non è mai, ecco. Certo, adesso è una provocazione, ovviamente, certo, la domanda certo. Semplicemente quello. Secondo me manca a volte anche il rispetto per l'autorevolezza, no? Delle persone che ne sanno di più, che sono quelle che dovrebbero insegnarci, e oggi magari c'è un po' meno considerazione, c'è un po' più l'idea del so tutto io, no? E quindi si impara un po' meno. Questo almeno è così, la mia visione delle cose per quello che faccio e vedo quotidianamente. Vedremo che se riusciremo a non perdere questo, almeno, ecco, non perdere il rispetto per gli altri, che poi sento che è la cosa fondamentale. Grazie Sabrina Carollo, alla prossima. Il Galateo per tutte le occasioni, ecco, ce ne vuole come. Ciao, buona domenica, mi manca tantissimo l'uomo che ti apriva la portiera della macchina o si alzava e ti faceva sedere, o ancora ti corteggiava in modo che ti faceva sentire la donna più importante del mondo. Ma è una regola che vale ancora adesso, quando vuoi conquistare qualcuno devi fare sentire questa persona la più importante del mondo, sennò com'è che la conquisti? Se non si riesce a fare neanche più questo, andiamo male. Giuseppe Bertolussi, buona domenica. Buona domenica a lei. Giuseppe Bertolussi o Bortolussi? Bortolussi. Ah, con la O, Bortolussi. Mi scusi. Ecco, lei è segretario della CGIA di Mestre, Associazione Artigiani e Piccole Imprese. Voi avete studiato l'andamento di come stanno andando le cose per quanto riguarda l'artigianato, e pare che in 10 anni potrebbero scomparire molte professioni manuali. È così? Sì. È così, ma non soltanto nel mondo dell'artigianato. Noi abbiamo cercato di mettere a confronto gli occupati sopra i 55 anni e quelli sotto i 24, vedendo che c'è una grave differenza, cioè che i posti che andranno persi quando questi ultra cinquenni andranno in pensione, non saranno coperti dai giovani. Ci sono posti come collaboratori domestici, addetti alle pulizie, ma anche autisti di autobus, di tram, anche agricoltori, operai agricoli, muratori, carpentieri, falegnami, braccianti agricoli, sarti, modellisti, tutti i lavori che si stanno perdendo. Non è magari gravissimo perché alcuni di questi lavori sono superati dai tempi, altri invece avrebbero bisogno di persone che ci dedicassero a questi lavori perché sono ancora importanti. Ecco, vediamo di dividere un pochino le cose, se possiamo farle. Quali, sì, secondo lei sono i lavori che ormai, insomma, il nostro tempo non vuole più? È giusto che vadano in estinzione, diciamo così? Ma guardi, è un po' difficile perché si è visto anche un revival di lavori che sembravano scomparsi. Per quello glielo chiedo. Risponderei subito. Sì. Impagliatori, cestai, spazzolai. Infatti questi lavori, per averli, per impagliare le sedie del design italiano, vengono mandati in Romania, in altri paesi, le sedie, e poi vengono rimportate quando sono impagliate. Io me li ricordo in strada nei mercati che rimpagliavano le sedie una volta. Il materassaio che cardava la lana in strada, tutte queste cose stanno scomparendo. Eppure in certi casi c'è un revival, nel senso, ecco, che sono richiesti. Ma qui nasce una domanda però, che è questa: su questi oggetti, diciamo così, che si possono mettere a posto, vale più la pena riempire di nuovo un materasso, rimpagliare una sedia o comprarne una nuova? Per poi alla fine è un po' questo il gioco, no? Perché la gente si pensa che costi molto di più comprare una cosa nuova che ripararla. Cioè meno comprare una cosa nuova che ripararla. Ecco. Guardi, il discorso è questo, dipende dal valore. Se lei ha delle belle sedie di design o sedie di antiquariato, conviene sempre impagliarle, non prenderne di nuove. Ma i numeri sono molto bassi, ovviamente, di chi, sì, ha questo tipo di sedie. Guardi, c'è questo discorso che secondo me è sbagliato, perché io ho presente delle inserzioni pubblicitarie di alcuni supermercati svedesi sul Corriere della Sera che richiedevano calzolai per la riparazione di calzature, cioè chiedevano a questa gente di andare, allora si parlava in lire, a 5-6 milioni di lire al mese, di trasferirsi in Svezia per lavorare nei supermercati a fare riparazioni, sì, di scarpe. Quindi un mondo più avanzato del nostro, un mondo più ricco del nostro, che però richiedeva le riparazioni. È sempre questione di valore, ma direi anche di più, di affezione. Una volta si avevano molti meno oggetti e ci si affezionava, e piuttosto di buttarlo via lo si teneva magari anche rotto, ma si cercava qualcuno che te lo riparasse. Non era solo una questione, ecco, forse di questi tempi si è capito il valore del riparare, comunque, esatto, ma guardi che è tornato di moda di questi tempi, e probabilmente andando avanti lo tornerà ancora di più. Ecco, vedremo tra poco invece i valori che assolutamente devono restare, i mestieri che assolutamente devono restare, e cerchiamo di capire quindi dove possiamo andare a parare, se lo stiamo cercando o se dobbiamo prepararci. Tra pochissimo. Il riposo del guerriero. A riguardo, sul salutare, prima di continuare con il nostro ospite, stavo, così come avevo esordito, dicendo che stamattina ho salutato il conducente dell'autobus, ero da solo e quindi mi sembrava giusto farlo, e mi ha guardato stranito. Allora sono arrivati molti messaggi su questo argomento, volevo leggerne qualcuno. A riguardo del salutare sconosciuti a Milano: abito in provincia di Milano ormai da qualche anno, sono toscano, arrivato qua ho continuato a salutare tutti i condomini ignorando la loro iniziale sorpresa. Adesso però mi salutano tutti, e infatti funziona così, insomma, se qualcuno comincia, e quindi è giusto che gli altri poi seguano in questo senso. E sento, leggo altri messaggi di altri posti dove è normale, mi fanno notare che per esempio in Francia sono addirittura gli autisti che salutano i passeggeri quando salgono, ma anche perché ti devono vendere il biglietto, quindi questo è un fatto, un po' come quando si entra in un negozio, è normale che ti salutino perché bisogna fare così per forza, perché poi ci senta, ma il biglietto dov'è? Andiamo avanti a parlare con Giuseppe Bortolussi, che è segretario della CGIA di Mestre, l'associazione artigiani e piccole imprese. Hanno fatto una sorta di studio sui mestieri che sono a rischio di estinzione, mettendo a rischio, facendo scomparire circa 385.000 posti di lavoro in 10 anni, se non mi sbaglio. Allora, Bortolussi, dicevamo, quali sono i lavori, i mestieri che invece bisogna assolutamente recuperare, che bisogna imparare e cominciare a fare? Beh, guardi, sono lavori normalissimi. Per esempio, autisti di autobus, tram e filobus, camion e mezzi pesanti, saranno 51.000 quelli che sono a rischio. E muratori, carpentieri, falegnami, perché le riparazioni, le ristrutturazioni, queste cose saranno sempre necessarie. Saranno magari le grandi ditte che costruiscono i palazzi, ma ci sono quelle che devono fare poi la manutenzione. Poi anche i braccianti agricoli, ma anche i carrozzieri, i meccanici d'auto, i frigoristi, 14.000 sono richiesti. E sono tantissimi questi lavori, che però pare che il mercato li richiede, ma gli italiani non si preparino a farli. Ecco, quindi diciamo il mercato in questo senso c'è richiesta. E quindi... C'è richiesta, ma guardi, c'è un dato che conferma questo nostro studio. È una lo diffonde ogni anno Unioncamere e il Ministero del Lavoro, si chiama Excelsior, questa banca dati, da dove si vede che i dati corrispondono, perché per esempio ogni anno c'è una richiesta di circa 600.000 posti, ci sono 600.000 richieste, 2/3 sono legate ai colletti blu, 180.000 di questi sono proprio di operai specializzati e solo 1/3, 200.000, è legato a richiesta di colletti bianchi, ed è tra questi, le cito sempre, cuochi, camerieri e altre professioni del commercio, sono richiesti 30.000, commessi e altro personale di vendita ai negozi, sono quasi 15.000, poi tecnici amministrativi, finanziari e bancari, quasi 8.000, insomma sono tutti lavori richiesti, ma che spesso non trovano copertura. Non tutti ovviamente, ma c'è qualcosa come un 50.000 posti che non vengono coperti. Ecco, la vostra analisi chiaramente dice se non dovessero cambiare le cose, cioè se il trend non dovesse cambiare, sì, ma ho l'impressione che invece cambierà in questi 10 anni, vista la crisi, forse si va finalmente a vedere anche quella parte del lavoro. Certo. Per carità, ci sono lavori nuovi nel web, nell'informatica, nella comunicazione, per esempio cameraman, regista, che so io, autori di programmi, nella ristorazione, per esempio nei bar è cambiato un po' tutto, molti giovani si mettono a fare questi lavori anche con una qualificazione che deriva dai loro studi, l'intrattenimento, il wellness, fitness, creano nuove occupazioni, ma anche di queste che le dicevo prima c'è bisogno, quelle banali, quelle che sembrano ormai sparite e non più necessarie, e invece lo sono posti che rimangono vuoti, e quando i giovani dicono io cerco lavoro e non lo trovo, per carità non lo troveranno sotto casa, ma lo possono trovare perché queste banche dati sono banche che tra l'altro lavorano ormai da molti anni e si è visto che sono serie, e quindi questi posti di lavoro ci sono, e anche quelli che diciamo noi sono in via di scomparsa potrebbero dare occupazione a molti. Le potrei anche far ridere dicendo che c'è molta richiesta, per esempio, di quelli che sono i tecnici fumari, che sarebbero gli spazzacamini, qualcuno inorridisce, invece oggi nei moderni diciamo condomini c'è bisogno di una pulizia delle canne fumarie periodica, eccetera, richiesta anche dalla legge, ma mancano gli spazzacamini, che sono dei tecnici fumari, così come mancano anche qui i casari, quelli che sanno fare il formaggio, per esempio, c'è molta richiesta e sono pagati anche bene. Anche nella panificazione mancano gli addetti e sono richiesti. Ne abbiamo parlato proprio poco fa di questo, infatti, perché poi... è un mondo. Certo, l'elenco devo dire è molto lungo, sono tantissimi mestieri e vi invito a leggerli, e non vi faccio l'elenco adesso in onda, però cercate lavori in via d'estinzione CGIA di Mestre su un qualunque motore di ricerca e avrete appunto tutta l'analisi e la ricerca che è stata fatta. Grazie Giuseppe Bortolussi, grazie, buon lavoro, grazie agli artigiani che continuano a fare appunto mestieri che se no andrebbero persi. Io devo dire... ma ho una cosa mia, a me piace molto riparare, io riparo, prendo i pezzi di ricambio, aggiusto, e lo trovo molto divertente. E mentre un po' di anni fa il posto dove andavo a prendere i pezzi di ricambio si lamentava perché diceva mai la gente sostituisce, e invece ultimamente stanno proprio cambiando le cose, la gente comincia a rimettere a posto, ad aggiustare, e questo è un dato interessante, quindi c'è bisogno anche di persone che aggiustino. Luigi Bertaso, buona domenica. Grazie. grazie altrettanto da Verona. Ecco, Luigi Bertaso è presidente della Compagnia del Sipario Medievale. Ero a Verona qualche settimana fa e mi sono trovato così immerso in questa atmosfera molto medievale e quasi surreale da un certo punto di vista, perché la Compagnia del Sipario Medievale mette in scena, tra virgolette, nella piazza, in questo caso la piazza di Verona, la piazza Erbe, ma non è l'unica, e la ricostruzione reale di vecchissimi mestieri, per cui addirittura fabbricare la carta, quindi la pergamena, c'erano le pecore, se non mi sbaglio, per filare la lana, il maniscalco con tanto di mantice e il fabbro appunto con il fuoco vero e proprio, e questo mi ha molto colpito, stupito, mi è piaciuto e ho visto tanto interesse anche intorno a voi. Sì, questi sembrano antichi mestieri, chissà di quei tempo, invece i nostri nonni, se vedessero queste cose, direbbero: ma sono quelle cose che vediamo attualmente da noi e che in brevissimo tempo sono scomparse. Guarda, io quando mi hai telefonato adesso stavo sistemando le sete che abbiamo tinto nella piazza Erbe di Verona. Tinto con che cosa? Con le erbe officinali, le sete di seta ovviamente, che prodotte dai bachi da seta. Io qua in casa ho un piccolo allevamento di bachi da seta. I bachi da seta che ormai, mentre poco tempo fa in ogni famiglia o quasi tutte si allevavano i bachi da seta, questi bruchi così simpatici, per produrre il bozzolo, per produrre la seta, come, ecco, noi li alleviamo come didattica e li portiamo in tutte le piazze d'Italia. Ecco, voi che appunto, esatto, quindi è un modo per vedere, per scoprire dei mestieri andati perduti. E quali sono quelli che più affascinano le persone, che in qualche modo poi avvicinano anche a voler imparare a fare? Allora, beh, questa qua della tintoria e dei lavori al telaio e queste cose sono una cosa che chiedono informazioni continuamente. Ecco, poi non so, la pergamena con le pelli, sì, di pecora, penso che siamo rimasti, il nostro gruppo, gli ultimi pergamenai esistenti in Italia. Sono delle persone che hanno fatto la loro vita dedicandosi alla costruzione della pergamena, o il fabbro dedicandosi al fabbro, poi adesso con una certa età, con la pensione, diciamo, trovano una nuova vita così, proponendosi come attori, ma come dimostrazione nella piazza. Ecco, i giovani a cosa si stanno avvicinando? Voi vabbè, insegnate, fate anche dei corsi, qualcuno di voi è anche professore di scuola, se non mi sbaglio. Sì, beh, io anche ho fatto una tesi di laurea su queste attività, diciamo, sull'evoluzione del territorio, su questi studi. Andiamo anche nelle scuole per proporre un medioevo vero, per proporre una vita come era in un tempo, non quel medioevo, diciamo, fantastico e favoloso che logicamente la cinematografia siamo abituati ad altro, certo. Insomma, però non so, far vedere l'amanuense che scrive con la storia della scrittura, la tabula rasa sulle tavolette di cera, o gli affreschi proposti con proprio con la tecnica dell'affresco, con la calzuola, la malta, come si fa l'affresco, l'iscultore, ma ce ne sono tantissime, il vasaio. Ecco, il materassaio, del quale abbiamo parlato poco prima. Il ecco, materassaio, loro senz'altro. Ma perché tante volte diciamo si curiosano su queste cose? Perché si vede in noi la manualità, noi abbiamo le mani servono per costruire, ce le hanno date apposta, sono fatte appositamente le mani. Noi siamo abituati oggi a prendere tutto precotto, preconfezionato, tutto quanto a posto. La manualità stiamo perdendola. C'è chi a casa sua fa qualcosina di che so io, compone. E perché prima ho sentito che parlavi di una sedia, anche noi siamo gli impagliatori di sedie, ma perché si vede un qualcosa che non è solo una cosa comperata, la sedia. Io vado in un negozio. E certo, è già pronta, infatti. È però già pronta. Invece vedo qualcosa di mio dentro. Vedo una paglia fatta, è una paglia di fiume. Vedo, cioè, è una cosa più naturale. È una cosa che ci colpisce il sentimento. Questo è vero, guardarvi affascina, e infatti le persone si fermano, tantissime chiedono, anzi direi che tutte chiedono. Fondamentalmente qualcuno trova sempre una domanda da farvi, perché i mestieri sono anche molti e come li rappresentate è bello vederli in quel modo, e quindi c'è proprio curiosità. Poi sarebbe bello che qualcuno si avvicinasse e cominciasse proprio a imparare almeno uno di questi tanti mestieri. Bravi per quello che fate, spero che riusciate a trasferire tutto questo ai vostri figli e quindi insomma portare avanti questo sforzo. E io a questo punto invito gli ascoltatori ad andare sul vostro sito, Luigi, perché è così che si possono vedere le cose e capire dove siete. Siete sempre a Verona in questo periodo adesso? Allora, una grossa manifestazione, vediamo un po', tu sei di Milano, vero? Sì, sì, però lì da radio in tutta Italia. Ecco, per cui chi fosse vicino qua, però appunto la compagnia del sipario medievale gira per tutta Italia, quindi andate a cercare le loro date e andate a guardare che cosa fanno. Il sito è sipariomedievale.it. Grazie Luigi Bertaso, buona domenica. Gli aggiornamenti sul traffico, e poi arriva la nostra glottologa, perché mi sa che qui di cose ne stiamo perdendo veramente molte di parole. Il riposo del guerriero. Si è persa la buona educazione in genere, cedere il posto agli anziani, salutare quando ci si mette a tavola assieme, scrivere una cartolina invece di un SMS, dare del lei con rispetto verso il superiore, saper perdere al gioco. E quello è il senso dello sport: cedere il passo, aprire la porta alle donne. Purtroppo 65 anni, ho perso anche la giovinezza, e il resto con impegno lo puoi recuperare, ma questa no. E poi dal 16 maggio sarò in disoccupazione e mi pento di non aver fatto un corso da calzolaio. C'è sempre tempo, Daniela. A Viareggio sono pochissimi, a 58 anni mi sarei reinventata, ma penso che sia sempre possibile reinventarsi. Oppure riprendere l'uso del cavallo da tiro, ora destinato solo alla carne, per lavorare terre poco accessibili, risparmiando così le alte spese dei trattori. Questo lo scrive Maura. Continuate a scrivere al 349-238-6666. Francesca, sono tante le parole che ormai stiamo proprio perdendo, ma anche la costruzione forse delle frasi. Buongiorno. E buon riposo a tutti. Avete introdotto questa puntata dicendo che esistono tradizioni, mestieri, credenze che stanno scomparendo, sì. Pezzi di cultura che passano, che scompaiono per il passare del tempo e il progresso. Leggo quello che avete scritto. Sì. Ed è per questo che vorrei soffermarmi su due parole, prima poi di fare un elenco di parole che ho raccolto con un'iniziativa che io, come tanti altri, ho intitolato SOS Lingua. Le parole su cui voglio soffermarmi ora però sono proprio estinzione e progresso. Estinzione letteralmente da estinguere, spegnere, riferito in primis a incendi, a cose che ardono. In senso figurato passa ad indicare il far cessare, far scomparire, l'annullamento, l'abolizione, lo scioglimento, ma anche l'appagamento ad esempio di un desiderio, quindi il venir meno. La cessazione, addirittura la cessazione dalla vita, lo sterminio, la distruzione. E poi abbiamo invece significati attestati nell'ambito di linguaggi specialistici, quali quello giuridico, pensiamo all'estinzione del debito, del reato, quello astronomico, quello edilizio, l'estinzione delle calci, quello che a Roma si chiama lo smorzo, il posto dove si comprano anche materiali edilizi perché le calci venivano spente, in senso geografico, in senso marinaresco, biologico, anzi soprattutto l'ambito biologico, è quello che, grazie a locuzioni quali estinzioni della specie e soprattutto animali o piante in via di estinzione, ha rivivificato la circolazione di questo termine anche nel linguaggio dell'uso, perché ha fatto da modello a una cospicua serie di forme che sono state costruite sostituendo a riferimento ad animali o a piante quello ad altre realtà, come ho fatto io poco fa dicendo ad esempio parole in via di estinzione. Ora, tra queste parole semplici, complesse, anche locuzioni, modi di dire, che per ragioni diverse hanno perso, stanno perdendo mordente, finendo per scivolare in un confinamento, perché o diventano di ambito settoriale o comunque diventano tipiche di nicchie di uso poco estese, appunto a questo tra queste parole noi ne troviamo tante, ma troviamo anche addirittura intere lingue o varietà di lingue, dialetti compresi, che sono a rischio di estinzione per ragioni che non sempre hanno a che vedere con il progresso. L'altra parola chiave a cui facevo riferimento, perché progresso nella sua semantica comprende in prima battuta il riferimento al passare del tempo e poi in seconda battuta una sorta di riferimento autocelebrativo agli avanzamenti dell'ambito in ambito scientifico o tecnologico in nome dei quali sono state sacrificate spesso appunto professioni e competenze che invece, come dicevano gli ospiti che mi hanno preceduta, potrebbero oggi costituire un motivo di rilancio. Ecco, quindi progresso ha sempre, scusami Francesco, sì, se ti interrompo, progresso ha da sempre l'idea di un andare avanti in senso positivo, ovviamente. Ma questa è un'accezione secondaria, perché il progredior, che è l'antecedente latino di questo nostro termine, indica semplicemente appunto il progredire, andare avanti. Okay. In questo senso, dicevo, è autocelebrativo, perché è molto comodo, no, dire che andare avanti e scoprire sia nuove sempre cose, meglio. Esattamente, certo. In sé è un fatto indubbiamente positivo, però c'è anche un uso, ci può essere anche un uso subdolo, no, di questo miglioramento sotteso all'andare avanti, perché non è scontato che andare avanti equivalga a migliorare. Esatto, e migliorare e poi con questo alibi eliminare cose che invece potrebbero risultare ancora funzionali e funzionanti. Ora, la lingua da questo punto di vista può costituire una lente di ingrandimento, perché consente di mettere meglio a fuoco la perdita, oppure al tempo stesso la lingua può risultare fuorviante, perché non necessariamente, e fatemi dire per fortuna, alla perdita di una cosa può far seguito la perdita della parola che la contraddistingue. Però adesso voglio fare un esempio. Sì. E voglio prendere il termine abbacinare o abbacinamento. Abbacinare è una delle parole che sono state segnalate in un SOS Lingua, perché molti utenti ne sentono la mancanza. Con abbacinare si indica l'abbagliare, l'accecare momentaneo, oppure in forma riflessiva, abbacinarsi, si indica il fatto di appunto accecarsi momentaneamente, ad esempio quando si fissa il sole oppure una fonte di luce intensa. Ora, le ragioni per cui questa parola è sintomatica del rapporto non scontato tra lingua, parlante e realtà risiedono la prima nella sua origine specialistica e la seconda in una sorta di mappa emotiva che si costruisce nella mente del parlante. Diciamo la prima, l'origine. Abbacinare si riferisce ad un'antica pratica che ha a che fare con un bacino. Ma cos'è il bacino? Ovviamente non parliamo del bacino di acqua e non parliamo del diminutivo di un bacio, perché bacino, da un termine del latino tardo di Gallia, indicava un piatto di metallo rovente, ad esempio di argento. Quando reso incandescente, perché posto sul fuoco, l'avvicinamento appunto del piatto incandescente agli occhi di un condannato ne provocava l'accecamento per essiccamento delle pupille. Certo. Quindi dietro a questo termine si cela una pratica che per fortuna si è persa. Sì, ma è terribile. È terribile, è un supplizio, ma per fortuna insieme alla pratica non si è perso il termine. Termine che, e qui passo alla seconda ragione, le mappe emotive, invece proprio per l'associazione al bacino che rievoca il bacio, viene sentito come un termine apprezzabile, un termine anche delicato, no? Da parte dei parlanti quasi come dire sono stato meravigliato, uno dice sono stato abbacinato, cioè accecato dalla meraviglia, sì. Quello è ormai il suo senso. Perché quella tradizione, quella pratica, quella forma di castigo si è persa ormai in maniera per fortuna irreparabile, tant'è che nessun parlante, a meno che non pratichi l'etimologia, riesce a rendersi conto di cosa di quello che sta dicendo veramente. Esatto, una parola che appunto di per sé è anche positiva. Questo significa che le parole si possono perdere o non perdere in conseguenza della perdita di ciò a cui rinviano. E quindi l'appaiamento di queste due dimensioni, un appaiamento in sé corretto, non va però dato per scontato. Quindi quando si parla di parole in via di estinzione, l'associazione che scatta più immediata è appunto quella a campagne di sensibilizzazione che, assimilando la lingua alla fauna o alla flora, portano a sollecitare interventi simili a quelli del panda, quindi quelli che servono a preservare il panda dal rischio estinzione, oppure a salvare piante che sono prese emblema della necessità di salvaguardia della biodiversità. Bisogna cominciare a usarle. La biodiversità, ecco, con questo vado a chiudere, perché sì. Non mi interessa in questo caso parlare dell'etimologia di questa parola, una parola di origine inglese peraltro, oppure non mi interessa, ecco, il composto biodiversità, ma mi interessa quello che indica, perché se esistono vari importanti motivi per mantenere un'elevata biodiversità a livello nazionale e locale, Quindi se perciò la perdita di una specie, di una sottospecie, di una varietà o anche di un singolo tipo di pianta o di animale comporterebbe una serie di danni, allora dobbiamo ragionare allo stesso modo per le parole. Quali possono essere le conseguenze della perdita di lingue, di pezzi di lingua, oppure, e sono le più subdole, le conseguenze della perdita progressiva di singoli vocaboli o ancora di accezioni, singoli significati quindi di singoli vocaboli, perché se alla obsolescenza, un'altra parola in via di estinzione, da obsoleto, la continuazione di un termine latino che era già poco usato nel latino ma che comunque è sopravvissuto per altri 2000 anni, se alla obsolescenza non corrispondesse la scomparsa di quanto queste parole indicano, quindi è un po' un caso opposto rispetto a quello del bacino di cui parlavamo prima, stiamo ipotizzando che scompaia la parola ma non scompaia la cosa a cui la parola si riferisce. Allora, se all'obsolescenza del termine non corrispondesse la scomparsa di quanto il termine indica, ci si troverebbe con la necessità di riferirsi a ciò che viene indicato con altri termini. Allora, di qui tre possibilità: o una nuova coniazione, una nuova coniazione che però... Vai veloce, hai 20 secondi. Ok, di tradizione, priva di storia, o il prestito da un'altra lingua, oppure, ed è la cosa più pericolosa, un'estensione di significato di termini ancora in uso. Questo che significa? Dire sempre di più con poco. E quindi aumentare il peso dell'interpretazione. Ecco, quindi poi tratto di questo parleremo anche la settimana prossima al Salone Internazionale del Libro di a Torino. Vi aspettiamo. Grazie Francesca. Grazie a voi. A più buona tardi domenica. Con tutti voi dopo il GR. Il riposo del guerriero. Si chiede Rosella, non è che degli oggetti non ci interessa più nulla, per cui non c'è alcun interesse alla loro conservazione? Quella bella gonna, la lampada che abbiamo acquistato in viaggio, quel semplice cuscino che abbiamo da tanto tempo, o forse sono le persone anche che non ci interessano più come una volta. E poi c'è invece che scrive: io riciclo pelle, soprattutto faccio questo trasformandola in altri capi, borse, gilet eccetera, da piccoli ritagli faccio dei fiori, per cui insomma è un modo per recuperare anche le cose. Oggi nel Riposo del Guerriero stiamo parlando di ciò che è in via d'estinzione, le cose che stiamo perdendo, abbiamo completamente perso o forse perderemo, e quelle che ci piacerebbe recuperare. Continuate pure a scrivere i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla nostra pagina di Facebook. E adesso parliamo con Luca Carminati. Buongiorno Luca. Presidente del Festival delle Lettere, perché ormai ci sono le mail, neanche più quelle, stanno andando in via di estinzione anche le mail, che stanno diventando più un modo per comunicare sul lavoro, perché ormai tra amici e parenti ci si scrive con i social network, per cui anche le mail sono in via di estinzione. Le lettere invece come possiamo recuperarle? Cioè le lettere, quelle scritte proprio con la penna, parliamo di quelle. Sì. Noi ci abbiamo provato e abbiamo cominciato questa incredibile avventura 8 anni fa, e il significato di quello che abbiamo poi fatto è stato proprio lì, è nato tutto quanto con questo dubbio, con il terrore che si stesse perdendo in quel momento, in quel frangente in cui tutto sembrava diventare molto veloce, quindi che la comunicazione veniva contratta. Un modo di comunicare che noi riteniamo essere assolutamente più vero di tanti altri. Ne abbiamo parlato in questi anni, e la scrittura in quanto tale, quindi quella che facciamo ancora a mano, traduce il nostro stato emotivo, e questo è al di là del contenuto. Ah, beh, sicuramente, insomma, ecco, la grafologia è una scienza ormai accreditatissima, per cui dalla scrittura ovviamente si possono capire molte cose della personalità. Certo, questa è una cosa in più che noi abbiamo ritenuto di valorizzare, oltre a una serie di altri elementi, l'universalità della scrittura a mano, quindi è sicuramente più facile che molta più gente sia in grado di scrivere a mano, quindi non c'è più la barriera della tecnologia. Noi abbiamo scrittori che partecipano al nostro festival che hanno 7 anni più giovani, ma arriviamo fino ai 90 e anche oltre. Abbiamo avuto un anno anche una 96enne che ha scritto al festival, quindi voglio dire l'universalità in tutti i suoi sensi, dall'aspetto tecnologico all'età, al sesso, insomma veramente ne abbiamo viste di ogni genere. Ecco, come funziona il festival? Perché si può partecipare, c'è un bando, insomma spieghiamo un pochino in cosa consiste. Sì, è un nasce tutto da un bando di concorso, quindi viene definito ogni anno un tema che per noi è anche il momento nel quale definiamo che successo avrà poi il festival. Dietro al Festival delle Lettere c'è un gruppo di ragazzi coordinati da due persone, una è il sottoscritto, la seconda è Marco Corbani, che organizza tutta la parte artistica del festival e che definisce ogni anno il tema che dovrà essere dibattuto l'anno successivo. Quindi noi a ottobre, a chiusura di un'edizione, annunciamo il tema dell'anno successivo. È chiaro che in quella fase c'è una lettura un po' lungimirante, una visione. Quest'anno il tema è Lettera a un italiano. Abbiamo voluto sceglierla quest'anno e non l'anno scorso, quindi nel corso del 150esimo appunto dell'anniversario, ma quest'anno perché ancora di più quest'anno riteniamo che ci sia la necessità di una ricerca di un'identità nazionale in qualsiasi modo, quindi non vogliamo metterci componente politica, morale, ma vogliamo soltanto che questo elemento, questo concetto venga dibattuto anche in questa forma. Ecco, le lettere quanto devono essere lunghe? Ma tendenzialmente noi diamo dei consigli, poi siamo molto larghi, nel senso sì, che il concetto è proprio lì, parlare e far venire fuori i sentimenti che spesso rimangono nascosti e che non siamo più abituati a comunicare. Consigliamo una paginetta e chiediamo chiaramente, insieme alla lettera scritta a mano, una dattiloscritta per agevolarci nella fase di lettura, nel caso in cui la scrittura sia particolarmente difficile da interpretare. La mia, per esempio, è incomprensibile, cioè, nel senso che è molto contratta perché è veloce, per cui è un po' difficile da interpretare. Poi ci siamo anche un po' disabituati a scrivere, almeno io parlo per me, perché usiamo anche molto la tastiera, ovviamente. E, ci sono in generale più donne o più uomini? Perché di solito sono sempre le donne che scrivono di più, poi magari invece la tendenza sta cambiando, non lo so. No, guarda, ti confermo, abbiamo circa un 70%, e questo ormai è 7 anni, quest'anno non abbiamo ancora terminato perché si può scrivere fino al 30 di giugno, naturalmente tutte le informazioni poi sono sul nostro sito, ma in questi ultimi 7 anni abbiamo riscontrato una percentuale che più o meno è sempre stata lì, 70-30, 70 donne e 30 uomini, e tendenzialmente le donne sono anche più brave degli uomini a comunicare, a parte un anno che è stato il 2011, se non erro, quindi quello appena passato, sì, no, quel 2010, dove le lettere degli uomini sono state le più belle, quasi tutti gli uomini premiati. Chissà perché. Vabbè. No. E cosa si vince, ammesso che si vinca qualcosa? Sì, noi abbiamo sempre cercato di lasciare l'aspetto premio molto legato anche a questo, sì, a questa, quindi tendenzialmente si vincono delle penne al da tema, collezione, insomma, molto importanti, e questo insomma è qualcosa che teniamo, appunto, cerchiamo di continuare anche nelle prossime edizioni. Va bene, speriamo che si ricominci dalle cartoline, no? Adesso sono le applicazioni sui telefonini che permettono di, sì, far diventare cartoline le proprie fotografie, ed è sicuramente una cosa molto carina. Il problema è che poi la frase però scritta sulla cartolina è stampata, e quindi non è, anche lì non c'è. Bisogna tornare almeno a ricominciare a scrivere le cartoline, che è sempre bello ricevere. Quando si riceve uno, dico, la cartolina è una vita, sì, che non la ricevevo. Guarda, fa sempre piacere. Ti stupirò, sì, dicendoti, noi abbiamo una categoria molto particolare che curiamo moltissimo, che è la categoria under 14, con, sì, i quali con questi ragazzi appunto lavoriamo molto, e anche quest'anno c'è un progetto particolare per loro che si chiama Ventulettera, ed è incredibile scoprire quanto i ragazzi invece siano ancora abituati a scrivere a mano, perché quasi sempre la categoria più numerosa in termini di età è proprio quella degli under 14. Sì, perché poi magari si ha anche il diario, la voglia di scrivere le proprie impressioni di getto, sì, sulle cose, e indubbiamente è molto più pratica la penna e il foglio piuttosto che il telefonino, per quanto tecnologico è sicuramente meno pratico scrivere, soprattutto quando non c'è una tastiera o la tastiera è virtuale, per cui non si ha neanche la sensazione di scrivere in quel momento, ma questo è un altro discorso. Luca, grazie, io voglio ricordarvi, in giuria c'è Matteo Caccia quest'anno e il sito è festivaldellelettere.it, quindi scrivete, insomma, scrivete le vostre emozioni e le più belle sicuramente si porteranno a casa anche un premio. Grazie Luca Carminati, buona domenica. Grazie a voi, a presto. Il riposo del guerriero. Ne ho parlato di mestieri in estinzione, oppure mestieri che stanno per sparire, dovremmo anche recuperare in qualche modo, ma c'è sempre invece chi si dedica alle vecchie arti. Gisella Tamagno, buona domenica. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Gisella ha organizzato insieme alla Proloco di Vinovo, siamo in provincia di Torino, una manifestazione che si chiama Fili Magici, Festa del Ricamo. Sarà l'11, il 12 e il 13 maggio. E perché pare che le ricamatrici siano ancora lì pronte a ricamare come una volta. Certamente, certamente. Allora, parlare di mestiere per il ricamo è un po' difficile perché è un'attività che richiede molto tempo, molta passione e quindi è difficilmente commerciabile, soprattutto in un ambiente come il nostro oggi, una situazione come la nostra con un po' di crisi economica e quindi io lo vedrei più per il momento come hobby e sto cercando di divulgare l'interesse e la conoscenza sul ricamo proprio per cercare di avvicinare il più possibile le persone a questa attività. È per questo che ho aperto una scuola una quindicina di anni fa, che adesso conta diverse sedi, ho un'ottantina di allievi. E ho scritto anche due libri facendo delle ricerche storiche su ricami antichi che erano scomparsi e periodicamente appunto organizzo queste manifestazioni, queste mostre che hanno proprio lo scopo di dimostrare quanto ricamo può essere gratificante e molto vario, ci sono tantissime tecniche, l'Italia è ricchissima di tecniche regionali, persino certe volte ogni paese ha una sua tecnica di ricamo, le tecniche sono molto diverse tra di loro, quindi chi magari non ha fantasia può avvicinarsi a una tecnica geometrica a fili contati, chi invece ha più fantasia può avvicinarsi alle tecniche a ricamo libero. Ce ne sono veramente tantissime, solo a Vinovo ce ne saranno più di 50 in esposizione, saranno 48 gli espositori provenienti da molte regioni italiane e dalla Francia e quindi credo che sia un'ottima opportunità sia per gli appassionati per venire magari a cercare nuovi stimoli, nuove idee e sia per chi appassionato non è e che non si è mai avvicinato al mondo del ricamo per vedere appunto questo nuovo ambiente, questo nuovo mondo che può sicuramente riservare molte sorprese a tante persone. Ecco, la cifratura funziona bene, nel senso che piace ancora cifrare le camicie, cifrare... Sì, allora sia cifrare le camicie, sia cifrare per esempio i corredi, io in questo momento sto eseguendo dei lavori di questo genere per dei clienti, sì. Ovviamente molti hanno paura un po' avvicinarsi a questa attività perché ovviamente un ricamo a mano ha dei costi magari un pochino più elevati di quella macchina, purtroppo c'è questa concorrenza dei ricami a macchina e molte volte dei ricami eseguiti nei paesi dell'Oriente, certe volte eseguiti a macchina e spacciati per a mano, certe volte eseguiti magari proprio a mano, però con un grande sfruttamento di donne e bambini nell'Oriente. È un po' difficile ovviamente tenere testa a una concorrenza di questo genere, però il ricamo fatto a mano da una professionista che ha dietro tutto uno studio, una tradizione, una ricerca, è sicuramente un lavoro molto affascinante e che dà sempre soddisfazione sia a chi lo fa e sia a chi lo riceve. Io ho la fortuna di aver avuto una prozia ricamatrice, ho ancora tante cose insomma fatte da lei bellissima. Che chiaramente restano nelle cose che posseggo e che continuerò a mantenere. Gisella, ovviamente sempre donne, gli uomini ricamatori non si vedono assolutamente, allora, o qualcuno ci prova? Poi qualche prova. Temerario? Sì. Anzi, ci tengo molto, mi fa piacere questa domanda, perché in effetti da secoli è considerato un lavoro da femminucce, da donnette, da nonnette. Sì, allora, sì, è vero. Esatto, prima di con tutto, la copertina sulle ginocchia. Esatto, no? Il gatto vicino, esatto. Invece, prima di tutto io ho allievi di tutte le età, ho avuto delle bambine dai 7 anni o delle signore di 91 anni, quindi è proprio un'attività per tutte le donne, ma anche per gli uomini, perché gli uomini comunque sono dei creativi, ci sono dei bravissimi sarti, dei bravissimi cuochi, dei bravissimi parrucchieri, non vedo perché non possono avvicinarsi al ricamo, e ce ne sono parecchi, alcuni ricamano vergognandosene un po', infatti immagino. So perfettamente che mandano le mogli ad acquistare i materiali. E altri invece incominciano a uscire fuori, in Italia ce ne sono parecchi e proprio a Vinovo ce ne sarà uno, anzi faccio il nome perché è il pezzo unico per cui mi sembra che se lo meriti, si chiama Antonello Sini e verrà da Villa Doria in Sardegna ed è veramente molto bravo, quindi non capisco perché non possa essere un'attività anche estensibile agli uomini, è un'attività creativa che dà enormi possibilità, ci sono un sacco di materiali, un sacco di tecniche, si possono applicare i ricami al capi di abbigliamento, di arredamento, all'oggettistica, agli accessori, quindi veramente dà tantissima soddisfazione vedere nascere dalle proprie mani un oggetto oggetto, che è un oggetto unico, perché il disegno è unico, perché anche la stessa persona che esegue lo stesso disegno più volte non viene nello stesso modo, assolutamente, questo lo sappiamo. Sono tutti pezzi unici che devono essere valorizzati e devono essere capiti, ed è per questo che io organizzo le mostre, per cercare di far capire alle persone il valore del ricamo. Gisella, grazie per il tuo entusiasmo, perché sei riuscita a trasmetterlo perfettamente, ma infatti il tuo compito è proprio quello, oltre che a insegnare. Grazie mille, invito tutti a venire a Vinovo a visitarci, sono sicura che piacerà la mostra. A Vinovo, provincia di Torino, l'11, il 12 e il 13 maggio per i Fili Magici, festa del ricamo. Grazie ancora Gisella, esatto. Tamagno, grazie, buona grazie domenica. Grazie a voi dell'opportunità che mi avete dato. Grazie, c'è il nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno, cosa stiamo perdendo, cosa vogliamo recuperare? Cosa vogliamo perdere proprio? Perché magari c'è qualcosa che proprio vuoi anche perdere per sempre, non so. Ma diciamo che innanzitutto fino a 10-12 anni fa rischiavamo veramente di perdere un po' quasi tutto il patrimonio enogastronomico italiano. Poi c'è stato un grandissimo risveglio che ha portato alla riscoperta di formaggi, di salumi, di dolci particolari, di vitigni autoctoni. Quindi questo risveglio devo dire che ha salvato larga parte di un patrimonio dimenticato, e se questo patrimonio è stato salvato, io dirò un qualcosa che è un controsenso, però poi lo spiego: lo ha salvato la globalizzazione, perché a forza di gridare contro la globalizzazione, l'omologazione del gusto, si è scatenato un po' sia nei territori che anche nel consumatore la voglia di andare a ricercare, la voglia di differenziarsi, ecco, di differenziarsi. Non uniformarsi, mi sembra anche giusto. E questo secondo me è stato un SOS che ha veramente molto funzionato. Si sono salvati tantissimi prodotti, non dimentichiamo che dalle ultime ricerche che aveva fatto il professor Scienza, in Italia ci sono 400 vitigni autoctoni, ci sarebbero 400 vitigni autoctoni, quindi un patrimonio incredibile, ci sono qualcosa come 400 formaggi e 600 salumi, quindi devo dire che abbiamo un patrimonio ricchissimo. Il problema oggi è un altro, cioè non dobbiamo più salvare i prodotti, perché come dico sono stati riportati diciamo alla luce, sono stati fatti riconoscere. Oggi bisogna salvare i maestri, perché stanno scomparendo gli artigiani. Siamo partiti così, noi oggi siamo partiti proprio da questo allarme del CGIA di Mestre, che dice che in 10 anni potrebbero scomparire molte professioni manuali, e molte sono legate proprio all'agricoltura. Sicuramente questo è un grave problema, perché in molte produzioni si sente che c'è il padre o il nonno o d'altro, ma nessuno vuol proseguire quel mestiere, e qui il problema è diventato difficilissimo. Guarda, ad esempio il pane, prendiamo il pane, non è che c'è da salvare il pane, però diciamo che anche in Italia, anche questo, abbiamo 300 o 400 forme diverse di pane per ogni territorio, però è difficile trovare gente che voglia oggi lavorare di notte, e quindi è diventato un mestiere particolare, cioè i giovani non sono più disposti a rinunciare alla notte, magari sia per andarsi a divertire, ma per fare anche meno fatica. Devo dire che allevare il bestiame veramente è molto impegnativo, perché 7 giorni su 7 sempre, non c'è mai pausa, e quindi L'altro punto è questo, che chi produce ad esempio grana padano, sì, parmigiano reggiano o altre tipologie di formaggio in cui bisogna ogni giorno mungere, e quindi avere, cioè ogni giorno sì, X forme di... Le mucche non è che fanno la domenica a casa. Neppure il Natale, no. Non fanno neppure il Natale, neppure la Pasqua. Questo è veramente diventato molto molto difficile. La vita è così, non so se questa crisi economica farà ricredere molto, spingerà in questo senso. Queste professioni antiche, però il problema esiste, prima erano i prodotti, oggi sono gli artigiani, sono gli ultimi, e io credo che bisogna cominciare a lanciare un SOS verso gli ultimi, coloro che appunto finito loro finisce un prodotto, ma non solo nel cibo o nel vino, finisce in tantissimi altri settori, perché anche altre branche dell'artigianato è la stessa cosa, il legno, il ferro battuto ed altro sono nella stessa situazione, e quindi credo che il problema sia fondamentale questo: o si riscopre appunto queste attività che ti portano a contatto direttamente con la materia prima, quindi con la lavorazione della materia prima diretta, che secondo me è una grandissima cosa, cioè poter lavorare un qualcosa con le proprie mani è importantissimo. Ma a proposito di mani, quanti oggi fanno la pasta fatta in casa? Anche questa diciamo è un'attività che sta scomparendo, specialmente nelle famiglie, perché una volta che se n'è andata la nonna e io credo la mamma lavora. Bisognerebbe chiedere a Imperia, alla Imperia, quante macchine impastatrici, quelle manuali, sai, quelle che si avevano in casa d'acciaio, no? Ecco, vendono ancora. È un'altra cosa, cioè le mani in pasta sono un'altra cosa, come il casaro che mette le mani sul formaggio. Io sono rimasto affascinato tanti anni fa nel vedere un casaro in provincia di Ragusa che produceva il ragusano e per due ore stava con le mani in bagno, in acqua proprio, a lavorare queste forme per dargli la forma particolare. E oggi non so se questo straordinario casaro c'è ancora e produce ancora, però diciamo che sono veramente gli ultimi e speriamo che ci siano qualcuno che li sostituisce, che per cui gli ultimi saranno altri. Grazie Davide, e beh, così abbiamo cominciato con questa SOS, abbiamo finito nello stesso modo e mi sembra il modo migliore. Grazie Davide, buona domenica, settimana buona prossima. Buona domenica a tutti. E intanto, prima di passare al momento dei videogiochi, ancora qua alcuni dei vostri messaggi. Mia nonna faceva la passamaneria, cioè rivestiva di lustrini e pagliette, vestiti d'alta moda. Quello è un lavoro pazzesco, mettere pagliette, adesso infatti non si fa in Italia, non so ancora chi, se c'è qualcuno che lo fa, di solito si danno all'estero. Stiamo perdendo la manualità, la bella calligrafia, a causa dei PC ci sono sempre meno persone in grado di scrivere araldica e anche i menu per i ristoranti. Beh, ci sono già i font già preparati che sembrano i calligrafici, no? Siamo i font calligrafici che sembrano scritti a mano, poi sono tutti uguali, ovviamente. E poi stiamo perdendo, scrive Elena, il silenzio e il buio della notte, e magari in qualche posto si riesce ancora a così ad assaporare. Prima di giocare vi ricordo il numero 800 24 00 24, il mistero in 24 minuti, il nostro spazio dedicato al mondo dei videogiochi. Oggi si occupa di un vero e proprio film, un videogioco che potete appunto così, che potete giocare da protagonisti, oppure che potete semplicemente guardare, visionare come se vi trovaste al cinema. Video game. Nel 2157 l'umanità ha scoperto di non essere sola nell'universo. Sono arrivati i razziatori. L'unica cosa che possiamo fare: combattere o morire. Mass Effect 3 mette i giocatori nel ruolo del comandante Shepard, alla guida di una squadra che deve fermare la più grande minaccia che la galassia abbia mai affrontato. Usando armi e poteri speciali, i giocatori dovranno affrontare i terribili nemici. Quanto è grave? Molto. Abbiamo appena perso il contatto con due avamposti avanzati. Gli scanner a lungo raggio rilevano qualcosa di enorme. È quello di cui Shepard ci aveva avvertiti? Sono pronto a scommetterci. La sola forza però non basterà per vincere la guerra. Uno dei cardini della serie è la possibilità di determinare eventi importantissimi attraverso le scelte fatte dialogando con altri personaggi, anche con la voce se avete Kinect. Viene reintrodotto nel gioco anche il sistema morale che determina l'allineamento generale del protagonista e le opzioni di dialogo disponibili. Quindi le parole e le azioni vi aiuteranno a formare un'alleanza che, con un po' di fortuna, riuscirà a respingere la minaccia dei razziatori. Oh mio Dio! Quello che fa veramente la differenza di questo nuovo titolo firmato BioWare sono le tre diversissime modalità di gioco. La prima, quella classica, è la modalità gioco di ruolo, che è l'impostazione tradizionale a cui sono abituati i fan di Mass Effect. In modalità gioco di ruolo i giocatori affronteranno scontri complessi e potranno avere tutte le opzioni di dialogo e le interazioni fra i personaggi del gioco. Che succede? Non saprei. Mi hanno solo detto che hanno bisogno di te. Subito. La modalità azione, invece, enfatizza il combattimento di Mass Effect 3 e tutte le maggiori decisioni e conversazioni avranno un misto di risposte, eroe e rinnegato. E questo permetterà ai giocatori di concentrarsi esclusivamente sul prepararsi agli scontri e affrontarli a dovere. Demeter! Ashley! Maledizione, sono nei guai! Inoltre c'è la modalità storia e questa impostazione è perfetta per chi non si sente a suo agio con i giochi d'azione. Il combattimento infatti qui è molto più facile da affrontare e mentre i giocatori potranno godersi il classico sistema di dialogo per cui la serie di Mass Effect è ben nota. E potrete ancora morire in combattimento se non fate attenzione, però con un piccolissimo sforzo riuscirete a farcela quasi sempre senza problemi. Se è così, come li fermiamo? Disponibile per Xbox 360, PlayStation 3 e PC, Mass Effect 3 è perfetto per tutti, per chi ama i giochi di ruolo, per chi ama gli sparatutto in campagna singola o multigiocatore e per chi vuole semplicemente godersi un film interattivo senza precedenti, un po' come, se li ricordate, i vecchi libri game che ormai non si trovano più se non nelle bancarelle Reminders. Se volete inoltre godervi un'esperienza ancora più completa, vi ricordo che è disponibile la guida ufficiale pubblicata da multiplayer.it e dalla quale ho tratto alcuni brani di questa recensione. Che Dio ci aiuti. Game over. Un mistero in 24 minuti. Pronti con i 1000 euro a portarvi a casa per acquisto di libri cartacei ed elettronici su www.libreriarizzoli.it. Per voi 5 indizi musicali, ma più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Partiamo appunto da 1000 euro con il primo indizio. Il numero per giocare 800240024, la risposta un personaggio, qualcosa di famoso oppure una delle notizie della settimana. Ed ecco il primo indizio. Fiorello ha avuto un coraggio a non tradurre questo, perché non è tradotto, perché il senso della canzone è completamente diverso, perché l'originale era Please Don't Go, cioè è una canzone totalmente tragica, per favore non andartene, resta qua, invece lui ha proprio stravolto tutto per poter stare nella metrica. Ha avuto un bel coraggio, non aggiungo altro, però ci serviva come primo indizio oggi. Davide, buona domenica, ciao! Ciao, buongiorno a voi. Eccoci ciao. Qui. Allora, questo era il primo indizio, ovviamente si intitola Sì o No, lui è Fiorello e questo è l'indizio dei 1000 euro. Che cosa vuoi fare, Davide? Ma io provo. Vai. Allora, io ho pensato appunto che, visto che di Fiorello si tratta, Fiorello in settimana è stato tra coloro che più esplicitamente, diciamo, hanno commentato l'esternazione di Grillo. Sì. Appunto tra il possibile, diciamo così, parallelismo tra Stato e mafia, e sì, direi che appunto l'argomento è appunto quella frase e le conseguenze che a quella frase, insomma, sono. Sì, se ne è molto discusso e penso che si continui anche a farlo. Grazie Davide per la tua grazie risposta. A voi, ciao. Buona domenica, ciao, ciao, ciao. Potrebbero essere 1000 euro per Davide, ma come sapete lo scopriremo solo al 24esimo minuto. Alfonso da Napoli, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Alfonso, cosa facciamo? Salve, ciao. Senti, io vorrei ascoltare un altro indizio. Ecco, scendiamo a 500 euro allora, eccolo qua. Sì, la mia carne cibo ti sarà, la mia pelle ti riscalderà, e sarà il mio fegato che coraggio ti darà, e così sarà. Pensate che questo album di Branduardi, l'album era La Fiera dell'Est, che è stata la canzone che aveva portato al successo Angelo Branduardi a quasi 40 anni, è del 1976. Questo, Alfonso, è Il Dono del Cervo, questo è il titolo della canzone, Dono del Cervo. Angelo, senti, Branduardi. Stefano, allora, io non ho molte idee, comunque provo a dirti la minaccia, diciamo, del boicottaggio per gli europei in Ucraina da parte, insomma, della Merkel e di altri paesi insomma, causa delle discriminazioni verso sì. Giulia Timoshenko. Se non si cambia la linea. Grazie Alfonso. Ciao, grazie. Buona domenica, grazie. A te. Andiamo avanti, 800 24 00 24, c'è Paola da Mantova. Buongiorno Paola. Buongiorno Stefano, buona domenica. Anche a te. Allora, cosa facciamo? Due indizi li abbiamo già usati, siamo a 500 euro. Io sono ferma con la mia idea iniziale del sì e del no. Sì. Allora, oggi in Sardegna si vota per il mantenimento delle province. Quindi penso che sia riferito alla risposta che gli elettori sono chiamati a scrivere sì e no. Il dono del cervo mi ha un po' spiazzato, però così posso immaginare che siano magari territori di caccia. Sorrido perché tanti SMS hanno dato questa come risposta. E ecco. Gli SMS però non valgono, e lo dico, però un po' di ascoltatori si divertono a dare risposte bianche SMS, ecco. Va bene. Ma anche non posso... a me aveva dato quest'idea. Non posso dire nulla. Ciao Paola, grazie. Buona Buongiorno. Giornata, anche a Stefano, te. Ciao. Stefano di Roma. Buongiorno. Ciao Stefano, eccoci Buongiorno. Qua. Allora, io rimango più della mia prima idea. Anche tu, Quando ho sentito Fiorello, perché Fiorello è una trasmissione, nell'ultima trasmissione che ha fatto, c'è stata una polemica con Luis Enrique, sì. Per l'imitazione di Luis Enrique, che però non è stato poi l'invito, non ha accettato l'invito per paura che lo prendesse in giro. E siccome Luis Enrique c'è questo tormentone, se va via non va via, i dirigenti della Roma che vogliono intervesti sì o no, io quindi penso che sia questa notizia su Luis Enrique, se va via o no della Roma. Grazie, mi piace il panegirico e funziona, non posso dire nulla. Grazie Stefano, ciao, buona domenica. Ciao, arrivederci anche a te. Grazie. Alessandro, sempre da Roma. Ciao Stefano, buongiorno e buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusa, era un momento distratto, è stato per caso data come risposta quella del referendum in Sardegna? Sì. Ok. E allora... sì, abbiamo altri indizi, abbiamo qua sulla nostra bancarella. La bancarella virtuale. Sì, un po'. Senti, allora sì, ascoltiamo un altro indizio. Un terzo indizio, allora ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi scendiamo a 300 euro con il terzo indizio. Un mistero in 24 minuti. C'è Alessandro da Roma in questo momento al telefono, ha chiesto un terzo indizio e così scendiamo a 300 euro. Ma come fa? Non mi capacito, che non è l'abito che il monaco fa. Sol, la, si, la. Forte e simpatico come uno zar. Eccola qui la bella faccia di Silvestri e il terzo indizio, siamo a 300 euro. Che bella faccia, dice Silvestri in questa canzone. Alessandro. Che bel vuoto. Stefano, ti lascio con simpatia perché capisco, intuisco che probabilmente please don't go, quindi per favore non andare via. Ma era sì o guarda, era sì o no, se no avrei messo please don't go, invece quello era proprio sì o no, sì o no. Hai ragione anche tu, è qualcuno che sì o no ci devi mettere la faccia, buttiamola lì così, insomma. Ero per il referendum. Cosa che ti viene in mente, scusami, quando c'è un sì o un no e una faccia, cosa che ti viene in mente? Ma qualcuno che... No, ma in generale, cioè non pensare al mistero in 24 minuti. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Ecco, non pensare al mistero così istintivamente, un indovinello. Se allora, cosa mette insieme sì o no? È una medaglia, è una faccia. Moneta, una moneta, una medaglia. Quindi è un sì o un no a seconda di come cade la... Così, era un esperimento, sono poco indicato potrei... per fare l'esperimento. No, perché leggo posso così interpretare la tua personalità, insomma, ecco, hai capito, se poteva essere così. Troppo razionale per fare indovinelli istintivi, Stefano. Allora, grazie Alessandro, ho capito che non c'è la tua risposta, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, ma c'è la simpatia di ascoltare. Grazie, sei tu il simpatico, grazie Alessandro, ciao. Buona Ciao. Domenica. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno Stefano. Ciao Angelo. Ciao. Io ho cercato di aiutare adesso, non potete dire di no perché più di così vi do la risposta poi. Cosa vuoi fare, Angelo? Io dico la storia tra Belen e Stefano. Ma è finta e quella storia lì? È finta? Ah sì o no? Perché dice finta. Chi lo sa se è vero o finta? Eh sì, e poi c'è il cervo, insomma, le corna. Pare che Corona l'abbia inventata. Scusa, io ti do un premio solo per la risposta. Grazie Angelo, ciao, non posso dire niente. Ciao, ciao, ciao, ciao. Raffaella da Urbino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusami, sto ancora ridendo. Io avevo una risposta, ma ho cambiato completamente brava. Tutto, per cui dico elezioni in Francia. Eccole lì. Grazie Raffaella, buona giornata. Grazie a lei. Ciao. Buongiorno. 800 24 00 24. Io un po' ho pensato di mettervi sulla strada giusta. Giovanna dalla provincia di Milano, buongiorno. Purtroppo buongiorno, la stessa risposta della signora. Ma tanto è sbagliata, guarda, te lo dico io, è una risposta sbagliata, non è giusta. Non ho altre idee allora. Niente. Peccato. Non ti viene in mente niente. Ma quando, cioè sì o no, è una faccia, cos'è che viene in mente? Forse viene in mente a me perché sono malato, non lo so. Grazie, ciao Giovanna. Buongiorno. No, anche perché su Facebook oggi hanno scritto se mi sono fumato qualcosa e non ho mai fumato niente in tutta la mia vita. Forse dovrei cominciare. Ivan dalla provincia di Varese, buongiorno. Ecco. Buongiorno a lei. Sì, Ivan. Pronti, buongiorno. Eccomi. Allora, che cosa possiamo dire? Io avrei bisogno di un altro indizio. Allora facciamo così, abbiamo il tempo per il quarto indizio, andiamo a 200 euro. Da nessuno ne date, anzi quando me ne andrò, lo farò con un sorriso, così luce resterà nei miei occhi appena offerti, a chi non li ha mai aperti, ma ben presto lo farà. Eccola qui, questa è una canzone, Ivan, che racconta una storia molto precisa, di quella ci occupiamo. Questo è il quarto indizio, si intitola Occhi di Speranza, Eros Ramazzotti, la sua voce nasale era inconfondibile. Ivan. Sì, mi viene in mente le votazioni di oggi, si fanno in vari comuni dell'Italia. Grazie Ivan. Prego. Occhi di speranza, anche in quel senso forse. Buona giornata, buona domenica. Franca, dalla provincia di Roma. Franca? Io la sento perché sento l'eco, vuol dire che la radio è alta. Franca? Niente, Franca ci sta ascoltando ma non parla. Cristina da Trento, buongiorno. Salve, buongiorno. Ciao Cristina, allora, dammi la risposta giusta. Secondo me Andreotti che è in ospedale. No, ho sbagliato. Ciao Cristina, buona giornata. Niente. Grazie. Anita dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Allora Anita, io pensavo dall'inizio delle varie elezioni che sono oggi in Europa, in Russia, in Germania, in Francia. Anita no, però mi dispiace. Che rabbia. Ciao Anita, grazie però, buona domenica. Ciao, grazie. Allora sì o no? Sì o no, cioè dire sì o dire no. Su che cosa? Questa è la seconda domanda. Sul dono del cervo, quindi donare. Sì o no sul donare? Ok, allora faccia, perché c'è Facebook di mezzo. Occhi di Speranza è una canzone che parla di donazione di organi e infatti questa è la risposta. Su Facebook questa settimana è nata l'opzione per donare gli organi, opzione che funziona in molte nazioni del mondo ma che non funziona in Italia perché la nostra legislazione non lo permette ancora, quindi non sapremo se anche in Italia l'avremo, però è una notizia che ha fatto molto discutere in bene e che quindi apre nuove possibilità anche di usare un social network. Questa era la soluzione del mistero, mi spiace, nessuno ha portato a casa il premio, ci proviamo, la settimana prossima ovviamente in diretta dal Salone del Libro di Torino dove vi aspetto. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Laura Vanossi in assistenza, Paolo Corleoni in regia e a voi. Buona settimana da Stefano Gallarini.